Sei alta marea. Attento, non lasciarla cadere, disse Mary Poppins mentre porgeva una grande bottiglia a Michael. Il bambino, che aveva colto il ben noto sguardo di ammonimento in quegli occhi, scosse il capo con fare di serietà. Farò proprio attenzione, promise. Infatti, anche il più provetto ladro notturno avrebbe potuto comportarsi con altrettanta cautela. Michael, Jane e Mary Poppins erano stati a far visita all'ammiraglio Boom per prendere in prestito una bottiglia di porto per la signora Banks. Il porto era dunque nelle mani di Michael ed egli camminava cauto come un gatto sottegole che scottassero. Avevano trascorso un magnifico pomeriggio. L'ammiraglio aveva cantato vidi tre navi navigare e aveva mostrato loro la sua nave attrezzata nelle bottiglie. La signora Boom aveva offerto un dolce allo zibibbo e un vassoio ricolmo di amaretti. E Binnack, il pirata a riposo che faceva la cucina e i lavori di rammendo all'ammiraglio, aveva permesso loro di guardare il teschio e le ossa incrociate che stavano tatuate sul suo petto. Sì, pensava Michael osservando la bottiglia, era stata veramente una bella giornata. Con malizia, disse ad alta voce, vorrei avere un bicchiere di porto, sono sicuro che è delizioso. Mary Poppins gli ordinò: cammina su, per favore, non strappare l'etichetta. Ricordati che non sei un picchio piumato. Non posso camminare più in fretta, brontolò Michael. E poi perché dovremmo affrettarci tanto, Mary Poppins? Stava appunto pensando che quando la bottiglia fosse stata vuotata, farebbe una nave e la metterebbe dentro. Certo che abbiamo fretta, disse Mary Poppins, scandendo ogni sillaba. È il secondo giovedì e io debbo uscire. Oh, grugnì Michael, che se n'era completamente scordato. Ciò significa una serata con Ellen. Guardò Jane per trovare uno sguardo di comprensione, ma Jane non gli badò punto. Stava ascoltando il rumore del mare, tenendo una conchiglia contro l'orecchio. Non posso sopportare Ellen, brontolò Michael. È eternamente raffreddata e ha i piedi enormi. Vorrei poter vedere il mare, mormorò Jane mentre cercava di scrutare nell'interno della conchiglia. Mary Poppins sbuffò impaziente. Uff, andate avanti desiderando continuamente qualcosa. Vorrei, vorrei, per tutto il santo giorno desideri. Se non è un bicchiere di porto, è addirittura il mare. Non ho mai conosciuto dei bambini come voi due, che sempre volete qualcosa di nuovo. Certo, tu non desideri mai nulla, disse Michael. Tu sei perfetta, ecco cosa sei. Ho proprio azzeccato nel segno, pensò Michael, poiché Mary Poppins gli aveva sorriso in modo lusinghiero. Diceva il suo sguardo dubbioso, ma improvvisamente era apparsa una fossetta sulla sua guancia. La sai lunga tu, Michael Banks. E la gridò, spingendo tutti e due verso la porta d'ingresso. Con grande sorpresa di Michael, Ellen non era raffreddata, ma aveva un altro malanno che la chiamava febbre del fieno. Starnutiva, starnutiva, tanto che la faccia le diventava paonazza. Michael aveva anzi l'impressione che anche i piedi frattanto le divenissero più grandi. Temo di staccarmi anche la testa con questi starnuti, disse Ellen con tono lugubre. Michael si sarebbe quasi augurato che così fosse. Se non ci fosse il giovedì, disse a Jane, Mary Poppins non se ne andrebbe mai di casa. Ma sfortunatamente ogni settimana aveva un giovedì e una volta che Mary Poppins era uscita non c'era modo di riaverla. Proprio in quel momento ella passava per il viale, portava il cappellino di paglia nera con le margherite e il suo più bel mantello azzurro cupo con i bottoni d'argento. I bimbi si sporsero dalla finestra della loro camera e osservarono i suoi movimenti. L'ombrello dalla testa di pappagallo aveva uno sguardo sbarazzino ed ella camminava con un'aria soddisfatta, come sapesse che l'aspettava una bella sorpresa all'angolo della strada. Mi domando dove va, disse Jane. Vorrei andarci anch'io, grugnì Michael. Ellen, non puoi smettere di starnutire? Oh, questo ragazzo ha il cuore più duro di un rospo. Non poté fare a meno di notare Ellen mentre cercava il suo fazzoletto. Quasi che io mi fossi scelta di mia volontà questo malanno. Ci! Tanto starnutì da far tremare tutti i mobili della camera. Starnutì tutto tutto l'intero pomeriggio e anche durante la cena. Starnutì su tutti e cinque i bimbi durante il bagno e mentre li metteva a letto. Starnutì fino alla prima oscurità della sera, finché con uno starnuto chiuse la porta e se ne andò a starnutire al pian terreno. Grazie al cielo, disse Michael, adesso almeno possiamo fare qualche cosa. Se ci fosse stata Mary Poppins, nessuno avrebbe mai osato dire o fare nulla, ma nessuno faceva attenzione a Ellen. Jane si arrampicò sulla mensola del caminetto e prese la conchiglia. Si sente sempre il rumorio del mare, disse ella felice. Canta e rugge piano piano. Santi numi! Esclamò Michael mentre ascoltava anche lui. Io sento anche nuotare i pesci. Non essere così sciocco, che assurdità dici? Mai nessuno udì un pesce nuotare. Jane e Michael si guardarono attorno con ansia. Di chi era quella voce e da dove veniva? Ebbene, che cosa fate lì tutti e due con tanto d'occhi? Entrate dunque! Gridava la strana voce che ora pareva uscire dalla conchiglia. È semplicissimo. Dovete soltanto chiudere gli occhi, trattenere il respiro e tuffarvi. Ma tuffarci dove? Disse Michael incredulo. Non vogliamo picchiare la testa contro il tappeto del camino. Il tappeto del camino! Non fare lo sciocco, tuffati! Comandava di nuovo la strana voce. Su, vieni, Michael, mettiti vicino a me, possiamo anche provare, disse Jane. Così, tenendo la conchiglia fra loro, chiusero gli occhi, trattennero il respiro e si tuffarono come la voce aveva suggerito. Con grande sorpresa, la loro testa non urtò nulla. Il rumorio muggente della conchiglia diventò sempre più forte e distinto e un venticello accarezzò dolcemente le loro guance. Si sentirono inabissare e piombarono giù come rondini finché a un tratto si sentirono spruzzare dall'acqua. Michael aprì la bocca e fece boccacce. Oh! Gridò forte. Sa di sale! Forse pensavi che sapesse di zucchero? Disse la solita vocina vicino a loro. Stai bene, Michael? Si informò con ansia Jane. Sì, egli disse coraggiosamente, finché tu sei qui. Ella afferrò la mano del fratello e tutti e due si tuffarono attraverso le profonde pareti d'acqua. Non ci vorrà molto adesso, gli assicurò la vocina. Posso già vedere le luci? Le luci nell'acqua? Che cosa strana, pensò Jane e aprì gli occhi per poter vedere di sfuggita. Al di sotto vide una cresta di fiamme a colori azzurre, rosa, argente, scarlatte e verdi. Belle, non è vero? Disse la vocina al suo orecchio. E girandosi, ella vide una trota di mare che la guardava lietamente con grandi occhi rotondi. Stava sospesa come un uccelletto sul ramo di un albero cremisi. Questo è corallo, ella gridò ammirata. Siamo giù nelle profondità marine. Ebbene, non era questo che volevi? Disse la trota. Credevo che tu desiderassi vedere il mare. Certo che lo desideravo, disse Jane molto sorpresa, ma mai mi sarei aspettata che il desiderio diventasse realtà. Per la grandezza del mare, perché seccarti col desiderare? Io chiamo questa una pura perdita di tempo, ma su, venite, non dobbiamo essere in ritardo per la festa. E prima che potessero chiedersi dove fosse la festa, se ne scappò via attraverso le foreste di corallo ed essi si inabissarono a lei vicini con la più grande naturalezza. Meduse rimbalzanti! Gridò una voce atterrita. Che emozione mi avete dato! Credevo che fosse una rete! Un lungo pesce saettò fra la chioma ricciuta di Jane e se ne andò lontano con un fare molto sconvolto. Questo è il baccalà. È nervoso, spiegò la trota. Ha perso molti amici lassù. E la trota indicò con la pinna la superficie dell'acqua. E ha sempre una gran paura che sia prossimo il suo turno. Jane pensò quante volte aveva mangiato del baccalà a colazione e si sentì un po' colpevole. Mi dispiace, cominciò a dire, quando un vocione roco la interruppe. Su, muovetevi, non bloccate le strade del mare. Perché non potete tenere le vostre pinne chiuse? Un enorme merluzzo si faceva strada a colpi di spalla fra loro. Ingombrare l'oceano in questo modo è molto seccante. Sarò in ritardo alla festa. Guardò infuriato i due bambini. E poi chi siete voi due? Domandò. Stavano appunto per dirgli il loro nome, quando Quando la trota si avvicinò al merluzzo e gli mormorò qualcosa all'orecchio. Ah, oh, certo, capisco benissimo, ma spero che abbiano denaro per pagarsi i biglietti. Oh, ma no, disse Jane, rovistando nelle sue tasche. Beh, c'è sempre modo di arrangiarsi. Non discuto sul metodo e sulla pazzia di chi che sia. Il merluzzo tirò fuori un paio di dischetti piatti da una tasca sotto la coda. Dollari vetrati, spiegò assumendo un'aria di importanza. Ne prendo sempre qualcuno e non so mai quando ne posso aver bisogno. Porse i dollari ai due ragazzi e sgusciò via attraverso il corallo. Vecchio sciocco di merluzzo, osservò ad alta voce la trota. Non avete bisogno di biglietti, siete degli ospiti d'onore ed entrerete gratis. Jane e Michael, sorpresi, si scambiarono uno sguardo d'intesa. Prima di allora non erano mai stati ospiti d'onore e quindi erano molto fieri di essere considerati tali. E chi entrerà gratis, vorrei sapere. Nessuno entrerà mai gratis finché io sto qui nell'oceano e nemmeno quando non ci sarò più. Questa affermazione era formulata da una voce stridula, acuta. Jane e Michael si voltarono, incontrarono un paio di occhi aguzzi e fissi su di loro in ogni direzione e si allungarono una quantità di tentacoli pelosi e affamati. Era una piovra. Disse la piovra guardando Michael. Bobby Shafto è bello grasso ed è proprio quel che fa per me a cena. Allungò uno dei suoi tentacoli spaventosi e Michael strillò terrorizzato. Oh no, non far questo! Disse la trota con ansia, e poi si avvicinò alla piovra e le disse qualcosa mentre Jane tirava via Michael di lì. Che cosa dici? Non puoi parlarmi più forte? Sai che son dura d'orecchio, eh? Ah, capisco adesso. Appartengono a. Ah, va bene, va bene. La piovra ritirò a malincuore il tentacolo. Siamo sempre lieti, continuò ad alta voce, di avere fra noi, al momento dell'alta marea, qualcuno che appartenga a. Una voce petulante interruppe. Che cosa sono mai tutte queste chiacchiere nel mare? I bambini si girarono nella direzione di quella voce, ma non videro che una piccola pinza che veniva fuori da una conchiglia. Oh, questo è il granchio eremita. Spiegò la trota. Vive appartato e non sa far altro che brontolare. Se qualcuno gli parla, si chiude nel suo guscio e buonanotte. Ma su, venite, dobbiamo spicciarci perché la musica incomincia. Mentre essi la seguivano in una galleria pietrosa, giungevano alle loro orecchie dolci accordi musicali. In fondo alla galleria palpitava una luce fioca e la musica diventava tanto più distinta quanto più essi si inoltravano. Ma improvvisamente i loro occhi furono abbagliati da un fascio di luce. Erano ormai giunti al fondo della galleria misteriosa e davanti a loro si presentava lo spettacolo più bello che avessero mai visto. Ecco che si stendeva davanti ai loro occhi il fondo del mare, tappezzato di una magnifica vegetazione marina. Vi erano tracciati viali di sabbia d'oro screziati da fiori variopinti, si innalzavano sulla sabbia dorata alberi di corallo e ciuffi di felci marine a grandi festoni ricadenti. Sulle scure rocce risaltavano scintillando conchiglie smaglianti, delle quali la più grande era tutta incrostata di madreperla. Vicino a questa roccia si spalancava una caverna profonda e nera come una notte senza luna. Un po' di lato palpitavano piccole luci che parevano stelle sepolte nelle profondità marine. Jane e Michael, all'imbocco della galleria, guardavano ammirati e trasognati. La bellezza di quello spettacolo li aveva come impietriti, nulla di immobile in quella grandiosa scena luminosa. Le rocce stesse parevano inchinarsi e danzare al perpetuo mormorio dell'acqua. Pesciolini bellissimi svolazzavano come farfalle attorno ai fiori ondulanti. Festoni di alghe marine pendenti dai rami dei coralli formavano mirifiche costellazioni di una infinita varietà di luci. Lanterne cinesi, pensò Jane. ma guardando più da vicino vide che quelle luci erano pesci luminosi appesi con la bocca alle alghe fluttuanti, rischiarando così tutto il meraviglioso paesaggio subacqueo. La musica era più distinta ora. Veniva da una piattaforma di corallo su cui una colta di gamberi suonavano ognuno un violino. Un flauto con le gote gonfie soffiava in una conchiglia, mentre un pesce tromba suonava con trombette d'argento e un basso batteva il tempo su di un grande tamburo. Attorno ai musicanti nuotavano esseri marini vivacissimi, saettanti fra rocce e coralli, con balzi e salti a suon di musica. Sirene dalle collane di perle nuotavano vigorosamente fra i pesci e dovunque giungeva il riflesso argenteo della loro coda e delle pinne. «Oh!» gridavano Jane e Michael, rapiti perché non potevano dire altro, come se quella fosse l'unica esclamazione possibile. «Eccovi qui, finalmente!» disse una voce rombante che veniva da una foca color bronzo, sopraggiungendo a tutta velocità. Arrivate proprio a tempo per la festa campestre, aggiunse offrendo una pinna a ciascuno e dondolandosi un poco fra loro. Fate spesso delle feste campestri? Chiese Michael. Stava augurandosi di poter vivere anche lui nel mare. Caro mio, no, rispose la foca, soltanto quando c'è alta marea. Purtroppo, purtroppo, ma voi siete stati invitati? Fu interrotta da una mastodontica figura verde che avanzava. Mi avevano detto che le balene non erano ammesse. Fuori, fuori, le balene non sono ammesse! Gridarono molti pesci in coro. La balena menò un gran colpo con la sua coda mostruosa e andò a mettersi fra due rocce. Con un faccione sentimentale e occhi tristi, si volse verso i ragazzi e disse, scuotendo il capo: È sempre la stessa musica. Dicono che sono troppo grossa e che mangio troppo. Non potete persuaderli a fare un'eccezione. Vorrei vedere i miei parenti lontani. I parenti lontani di chi? Fece appena in tempo a domandare Jane, giacché la foca interloquì ad alta voce. Adesso non fare la patetica, balena. Muoviti. Ricordati dell'ultimo sfortunato incidente. Fu lei a papparsi tutti i pani alla sardina. Disse la foca rivolgendosi a Jane. Non vi ammettiamo che per motivi di lavoro. Alla porta, via di qui. Un pesce che portava una spada aguzza sul naso arrivò con gran trambusto attraverso i prati. Oh, non ho mai nessuna distrazione, piagnucolava la balena, mentre il pesce spada e la foca la cacciavano via. Jane era assai spiacente per lei. Ma dopo tutto, disse voltandosi verso Michael, prende tanto spazio. Ma Michael non era più vicino a lei. Era nuotato via con una delle sirene che stava pulendosi il viso con una spugnetta rosa. Ebbene, gonne, penso, e camicette, scarpe, sentì dire da lui Jane, mentre nuotava per raggiungerli. La sirena si volse verso Jane e le sorrise. Gli stavo chiedendo informazioni sulla moda lassù, spiegò accennando in alto al di sopra del mare, ed egli mi dice che si portano camicette e scarpe. Proferiva queste parole con un risolino, come se ne dubitasse. E soprabiti, aggiunse Jane, e scarpe di gomma, naturalmente. Scarpe di gomma? La sirena corrugò la fronte. Per tenere i nostri piedi al riparo, le spiegò Jane. La sirena rise di cuore. Che cosa straordinaria, disse. Quaggiù preferiamo conservare tutto bagnato. Si voltò con un guizzo per andarsene, quando una voce chiara e fresca la richiamò. Ohé, anemone! Gridava la voce a cui tenne dietro una forma argentea guizzante, staccata da un letto di gigli. Costei, nel vedere i bambini, si arrestò a mezz'acqua e li guardò attentamente con i suoi occhi enormi e chiari. Che Dio vi benedica! Gridò sorpresa. Ma chi mai perse queste povere creature? Nessuno? Le rispose raggiante la sirena, accostandosi. Oh, davvero? Ne sono molto lieto, rispose il pesce con un sorriso arrogante. Penso che sia mio dovere presentarmi. Sono il salmone del mare profondo. Spiegò scuotendo le pinne. Sono il re dei pesci, come saprete. Questo è tutto. Oso credere che avrete udito parlare di me chissà quante volte. Un vanesio simile era difficile trovarlo in qualsiasi altra parte del mondo. Rinfreschi! Rinfreschi! Disse una voce. Era il luccio dall'aria di vecchio maggiordomo. Che che sosteneva con disinvoltura un vassoio. Servitevi, disse il salmone chinandosi verso Jane, un panino alla sardina oppure un gamberino salato. Gelatina di pesce, naturalmente. E voi che desiderate? Disse voltandosi verso Michael. Latte di mucca marina oppure birra? O se vi garba un semplice bicchiere d'acqua marina. Ero quasi dell'idea, Vostra Altezza, che il giovanotto preferisse il porto. Il Lucio lo guardava lugubremente mentre porgeva verso di loro il vassoio. E avrà del porto, disse imperiosamente il salmone, mentre prendeva una bottiglia di liquido rosso cupo posata sul vassoio. Con un moto di sorpresa, Michael si ricordò di aver avuto questo desiderio. Prese il bicchiere e beve d'un fiato. È proprio esattamente come lo sciroppo di Ribes, gridò. Benissimo, disse il salmone concitato, come se il porto fosse un suo prodotto esclusivo. Adesso non vi piacerebbe vedere il bottino? Stanno probabilmente scrutando gli ultimi rimasti, ma avremmo tempo di vederli anche noi se ci sbrighiamo. Mi domando che cosa hanno preso, pensò Jane, mentre lei e Michael procedevano insieme al salmone. I viali marini erano affollatissimi di pesci saltellanti verso i prati. Piano, piano, ricordate chi state spingendo, disse il salmone con voce altezzosa, facendoli sparpagliare a destra e a sinistra. Care pinne, grandi pinne, fate attenzione a questi bimbi. E additò un gruppo di monelli marini che incespicavano vicino a loro in una confusione indicibile. Maestro, fate attenzione ai vostri allievi. Questo oceano sta diventando un vero giardino zoologico. Che cosa? Disse un pesce distratto che navigava con il naso in un libro. Eccomi qui, brilla e sfavilla. E anche tu, Spikey. State buoni, altrimenti non vi lascerò andare alla festa campestre. I monelli si scambiarono uno sguardo, sogghignarono e poi nuotarono quasi solennemente vicino al loro maestro di scuola, con un aspetto poco divertito. Eccoci, ci siamo, gridò il salmone, conducendo i ragazzi attorno a un gruppo di corallo. Al di sopra di una roccia pianeggiante c'era una colonna di pesci con gli occhi fissi solennemente all'insù. Ogni pesce teneva una canna da pesca fra le pinne e osservava con ansia la propria canna issata attraverso l'acqua. Il salmone diede una spiegazione. Il pesce pescatore, e aggiunse, parlate sottovoce, non piace a quest'ora essere disturbati. Ma, mormorò Jane con aria sorpresa, le canne sono volte all'insù? E il salmone rimase di stucco. E dove mai dovrebbero essere dirette? Difficilmente potete aspettare che si vengano giù da soli. Adescateli, aggiunse additando parecchie borse impermeabili ripiene di pasticcini. Ma che cosa vogliono pescare? Mormorò Michael con voce un po' rauca. Per lo più esseri umani, spiegò il salmone. Quasi tutti si lasciano adescare con un pasticcino al lampone. Guardali un po' come si inarcano e si contraggono. Con un tremolio della coda indicò una caverna lì vicina e i bimbi rimasero senza fiato dallo stupore. Perché in quella caverna stava un grappolo di esseri umani dall'aria molto offesa e disgustata. Vi erano uomini con cappelli estivi e occhiali neri da sole che agitavano i pugni e pestavano i piedi. Tre vecchie signore agitavano i loro ombrelli e una giovane con scarpe rosse si sbracciava disperatamente come se invocasse aiuto. Vicino a lei due bimbi desolati tenevano ancora una rete da gamberetti. Ebbene, come li trovate? Disse beffardo il salmone. Devo dire che mi sembrano assai ridicoli, proprio come pesci fuori d'acqua. Tutte quelle povere creature umane sbuffarono rabbiose e voltarono le spalle al salmone. Nello stesso momento, dall'alto, un grido acuto squarciò il mare. Lasciatemi andare, vi dico. Toglietemi quest'uncino subito. Come osate fare questo proprio a me? Un pesce pescatore, ridendo di gusto, incominciò ad arrotolare la corda intorno alla canna da pesca. Toglietemi, vi ripeto, ricominciava la voce. In mezzo a una miriade di bolle comparve la forma più inverosimile che si fosse mai vista. Il suo corpo era ricoperto di un mantello foltissimo di lana, un velo grigio le svolazzava sul cappello e i piedi erano ricoperti da pesantissime calze di lana e da scarponi abbottonati. Michael aprì la bocca, rimase senza fiato e gongolò: Jane, vedi? Credo che sia la signorina Andrew, disse Jane, gongolante dalla gioia. Anche lei! Infatti, era proprio la signorina Andrew. Veniva giù tossendo e dando in escandescenze. Il pesce pescatore ritirò l'uncino dalla sua bocca e la spinse verso la caverna. Che oltraggio! Chi ha mai visto una tale assurdità? Ella inveiva. Come potevo sapere che quel pasticcino aveva un uncino? Che villani! Mostrò i pugni ai pescatori. Scriverò al Times. Starete freschi. Osservate bene i suoi contorcimenti, ammonì il salmone. Che bugiarda, si dimenerà ancora per ore e ore. Jane era convinta che la signorina Andrew aveva soltanto ciò che si meritava, ma ella si guardava con ansia. Che cosa terribile, pensava, se Jane o Michael fossero stati pescati. E chiese con una certa vivacità: che cosa faranno loro i pesci pescatori? Oh, li lasceranno andare, naturalmente. Noi li peschiamo soltanto per sport, lo sapete, poiché sono troppo duri da mangiare. Su, venite dunque, salmone, chiamò la foca in distanza. I bambini devono essere presenti per il saluto ed ella deve giungere da un momento all'altro. Jane guardò Michael con uno sguardo interrogativo. Chi poteva dunque essere? Forse una sirena di alta classe? Oppure forse la regina del mare? E il salmone gridava a qualcuno: Avevo dimenticato, venite tutti e due. Andò davanti a essi, saltando e curvandosi, ed ecco apparire un cavallo marino che trottava elegantemente e nuotava su e giù in mezzo a loro, mentre si precipitavano verso i prati. Buongiorno, Jane e Michael, gridò una voce familiare. Vi ricordate di me e del vostro acquario? Adesso sono tornato a casa, salutatemi la mamma vostra. Il pesciolino dorato sorrise e se ne scappò via prima che essi avessero il tempo di rispondere. Che ressa! Siamo pigiati come acciughe in un barile, disse il salmone sbattendo la coda. Rinfreschi, rinfreschi, gridava la sogliola senza voce. Oh! Bene, ma anche una bottiglia di rum, rispose un'altra voce familiare, e arrivò l'ammiraglio Boom, che si immergeva allegramente per prendere un bicchiere dal vassoio. Vicino a lui nuotava la buona signora Boom dal viso di colomba, e veniva pure Binnacle, che si arrabattava nella loro scia. L'ammiraglio gridava a squarciagola: Salpo per Rio Grande! Su, marinai, ormeggiate, ammainate le vele! Davanti a lui la sogliola rimase interdetta, scuotendo la testa. Ecco che cosa sono gli uomini, disse lugubremente. Non so proprio chi debba ancora venire qui nell'oceano. Ah, eccovi qui, bambini, gridò la foca color bronzo, mentre si faceva strada a colpi di spalla nella calca. Attaccatevi alla mia coda e io vi tirerò. Scusate, lasciatemi passare, pesci. Questi sono Jane e Michael, ospiti d'onore. I pesci si scostavano e li guardavano fissi. In mezzo a quel trambusto si udirono frasi di benvenuto. La foca spinse la folla da una parte con le sue grandi pinne e trascinò i bimbi dietro di sé sino alla roccia di Madreperla dai mille riflessi. Giungiamo proprio in tempo per i saluti, disse ansimando. La sua voce fioca era appena appena udibile fra tanto strepito di risa. Ma quali saluti? Stava quasi per chiedere Jane, quando d'un tratto lo schiamazzo cessò. La musica e le risa morirono e un silenzio profondo cadde sul mare. Tutti i pesci erano zitti come pietre. I fiori che oscillavano si schierarono calmi nell'acqua e persino l'alta marea si era acquetata. Sta per arrivare, disse la foca in un sussurro mentre additava la caverna. Sta per arrivare, fecero eco tutti gli astanti. Dalla caverna nera e misteriosa venne fuori una testa appassita. Due occhi vecchi e stanchi sbirciarono le luci che abbagliavano. Dalla massa oscura vennero fuori due pinne raggrinzite su cui troneggiava una conchiglia nera a guisa di casa. I bimbi cercarono di aggrapparsi alla foca bronzea. Chi è? Le chiese Jane in un orecchio. Pensava che si trattasse di una tartaruga o qualcosa di simile. È la Terrapin, rispose la foca con aria arcigna, l'essere più vecchio e più sapiente che ci sia al mondo. La Terrapin procedeva avanzando sulla roccia perlacea, pollice per pollice, sulle sue squame tremanti. con gli occhi simili a due piccole stelle nere sotto le palpebre socchiuse, guardò per un momento tutti gli astanti, poi, alzando la sua vecchia testa raggrinzita, sorrise e parlò. «Amici miei», cominciò maestosamente con una voce da vecchia campana rotta, «vi saluto, abitanti del mare, e vi auguro una buona festa di alta marea». Chinò la sua testa raggrinzita fin sulla roccia e a loro volta i pesci si inchinarono umilmente nell'acqua. «Questa è una grande ricorrenza per noi tutti», continuò pacata la Terrapin. «Sono molto lieto di vedere questa sera tante vecchie conoscenze». Il suo sguardo, simile a una stella nera, percorse i prati affollati come se riconoscesse in un solo sguardo ogni abitante del mare. «Ma vi è certamente un assente fra noi!» e corrugò la fronte rugosa. La foca gettò uno sguardo verso la galleria. Poi la sua voce rombò trionfante. «Arriva! È qui, signora mia!» Mentre ella parlava, si levò un clamore di voci e tutti gli abitanti applaudirono e manifestarono la loro gioia. In quello stesso momento, con grande stupore dei ragazzi, apparve al limite della galleria una figura che era loro stranamente familiare. Era lì, col suo più bel mantello turchino e il cappello di paglia ornato di margherite. Poi, graziosa, elegante, accurata e disinvolta, la figura scivolò attraverso i prati scintillanti. Le acclamazioni scoppiarono in un grido di gioia mentre ella approdava sulla roccia della Terrapin. «Benvenuta, benvenuta, benvenuta, benvenuta, Mary Poppins!» gridarono mille voci. Ella agitò il suo ombrello dalla testa di pappagallo in segno di saluto, poi si volse e si inchinò davanti alla Terrapin. Ella la guardò a lungo, come se gli occhi fosforescenti volessero vedere nel suo cuore, quindi agitò la sua testina nuda e le sorrise amichevolmente. «Cara cuginetta mia!» le disse cordialmente. «Questo è proprio un grande piacere. È molto tempo che non ho una visita dal mondo fuori d'acqua. Ed è anche molto tempo che il tuo secondo giovedì non coincide con la nostra alta marea. A nome di tutti gli abitanti del mare profondo, io ti porgo il benvenuto, Mary». E le tese una piccola pinna. Mary Poppins la strinse e ancora si inchinò rispettosamente. Gli occhi azzurri, simili alla porcellana, guardarono in quelli neri e si scambiarono così uno strano sorriso. Era come se non esistessero segreti fra loro. «Ed ora, cara Mary», continuò la Terrapin, «poiché nessuno vien giù nelle profondità marine senza portar via qualche cosa con sé, voglio farti un piccolo dono». Trasse dalla caverna un piccolo oggetto splendente e lo mostrò a Mary Poppins. «Prendi questo per ricordo della tua visita. Lo potrai adoperare come una bella spilla o uno spillone da cappello». E, drizzatasi, appuntò una stella marina sul mantello di Mary Poppins. La stella marina scintillava e brillava sul turchino come un grappolo di diamanti. «Oh, grazie!» ella disse con un grido di felicità. «È proprio ciò che desideravo!» Ella sorrise alla Terrapin e anche alla stella marina, e poi il suo sguardo si volse ai bimbi e il sorriso svanì immediatamente e fece uno sbuffo di disappunto. «Ti ho già detto, Jane, di non tenere la bocca aperta. Ve l'ho detto mille volte. Chiudi la bocca, Michael. Non sei un merluzzo». «Vorrei sperare di no», mormorò indignato il merluzzo che stava proprio dietro ai bambini. «Questi sono dunque Jane e Michael?» disse la Terrapin mentre volgeva i suoi occhi stanchi su di loro. «Sono assai lieta di conoscervi finalmente. Siate i benvenuti, bimbi miei, alla nostra festa dell'alta marea». Si inchinò con sussiego e, spinti dallo sguardo fulminante di Mary Poppins, i due piccini si inchinarono a loro volta. «Vedete?» ella continuò con la sua voce vecchia e cavernosa. «Io so chi sono Jane e Michael, ma mi chiedo, sì, mi chiedo se si sanno chi io sia». Essi scossero la testa e la guardarono senza fiatare. Ella si scrollò e li sbirciò pensosamente per un momento, poi parlò. «Sono la Terrapin. Abito alla radice del mondo, sotto le città, sotto i colli, sotto il mare stesso, lì è la mia casa. Dalla mia radice oscura, attraverso le acque, la terra nacque con i suoi fiori e le sue foreste. L'uomo, la donna e le montagne scaturiscono di lì, e anche le belve, gli uccelli e l'aria. Ella tacque per un momento e gli abitanti del mare la osservavano in gran silenzio. Poi continuò. Sono più vecchia di tutte le cose esistenti. Sono silenziosa, oscura e sapiente, calma e molto paziente. Nella mia caverna ogni cosa ha il suo principio e tutte le cose ritornano a me. Posso aspettare, aspettare. Chiuse le palpebre e scosse la testa nuda e raggrinzita, come se parlasse a se stesso. Non ho più nulla da dire, disse sogguardando attorno. Così, e sollevò con gesto da gran signora una pinna, ordina alla musica di suonare, comandò alla foca, e lascia che il popolo marino scelga le danze. Che ritmo desiderate, bambini? Un pum pum. Pum, um, pum, pum, pum, ronzò una voce come un'ape in una bottiglia. Ah, certo, mio caro ammiraglio, approvò la Terrapin. È un suggerimento prezioso. Allora, fate suonare la zampogna del marinaio. Ad un tratto un'agitazione generale si impossessò frenetica di tutti i presenti. La banda scoppiò in accordi musicali dolci e allegri e i pesci ricominciarono ad agitare le loro code. Voci e risa riempirono il mare e la marea incominciò a muoversi. Tidium pum pum, andavano cantando pesci, sirene, molluschi e foche. Tidium pum pum, gridava l'ammiraglio Boom, mentre tirava invisibili corde incatramate. Tidium pum pum, cantava la signora Boom, congiungendo le mani e dondolando i piedi. Tidium pum pum, cantava squarciagola Binnacle, pensando ai felici giorni di quando era pirata. E i pesci, su e giù nella danza, agitavano le loro pinne argente. La foca bronzea sbatteva dall'alto al basso la coda e il salmone saltellava sui prati come un uccello. I pesci pescatori si pavoneggiavano con le loro canne e il pesce spada e il maestro di scuola ballavano assieme. E sempre fra la calca che cresceva, una figuretta scura si muoveva come un'ombra graziosissima. Mary Poppins faceva ballare la zampogna sul fondo del mare. E i bambini rimasero in piedi presso la roccia perlacea e guardarono la strana scena che si svolgeva. Trovate strano, non è vero? Disse la Terrapin. Vedo che state godendovi tutto il mare. E rise cordialmente nel dire queste parole. Jane fece un cenno. Credevo che il mare fosse tanto diverso, ma in realtà è molto simile alla terra. E perché no? Disse la Terrapin, sorridendo. La terra proviene dal mare, ricordatevelo. Ogni cosa della terra ha quaggiù un fratello o una sorella. Il leone, il cane, la lepre, l'elefante. Le gemme preziose hanno una loro specie nel mare, così pure le costellazioni. La rosa ricorda le acque salate e la luna il flusso e il riflusso della marea. Anche voi dovete ricordarvi del mare, Jane e Michael. Vi sono molte cose nel mare, bambini miei, che ancora non sono venute mai fuori e non voglio alludere ai pesci. La Terrapin rise. Ma vedo che i vostri piedini si contraggono. Andate pure adesso e entrate nel ballo. Jane prese Michael per mano. Ma ricordandosi che ella era vecchissima, prima di andarsene fece un bell'inchino alla Terrapin. I due fratelli si gettarono a capofitto fra i pesci, seguendo il ritmo della musica. Come luccicavano e si impennavano i loro piedini nudi, come le loro braccia si agitavano freneticamente nelle acque e i loro corpi oscillavano come fili d'erba marina al ritmo della zampogna del marinaio. Tiddihum pum pum, gridava l'allegra musica mentre Mary Poppins sopraggiungeva a nuoto. Ella li prese per mano e insieme danzarono dondolandosi attraverso i rami di corallo. Jane e Michael ballavano spostandosi qua e là, sempre più in fretta, girando come turbini, finché Storditi dalla danza e abbagliati da tutte quelle luci, chiusero gli occhi e si appoggiarono a Mary Poppins. Le braccia di lei li strinsero amorose con forza mentre li sollevava attraverso l'alta marea. Tidium pum pum! Tutti e due ciondolavano nel sonno mentre la musica diventava sempre più debole. Tidium pum pum! O mare che ci avvolgi e ci culli tutti quanti nella tua potente ninna nanna. Oh Mary Poppins, culliamoci assieme, culliamoci. Fammi cullare, fammi cullare. Tienimi forte, Mary Poppins, mormorò Michael, quasi addormentato mentre cercava rifugio fra quelle braccia protettrici. Non vi fu alcuna risposta. Sei qui, Mary Poppins? Domandò con uno sbadiglio mentre si sollevava dal mare che lo cullava. Ma non venne ancora risposta. Così, tenendo sempre gli occhi chiusi, chiamò di nuovo e il mare fece eco alla sua voce. Mary Poppins, vieni, vieni, dove sei? Dove sono sempre a quest'ora mattutina? Ella rispose sbuffando irritata. Oh, com'era bello quel ballo! Disse il bambino ancora addormentato, allungando un braccio verso di lei per attirarla a sé. Ma non toccò nulla. Ma le sue dita che annaspavano non incontrarono che una soffice, tiepida massa che aveva tutta l'aria di essere un guanciale. Ti sarò grata se salterai fuori da solo dal tuo letto, è quasi l'ora di colazione. La voce di Mary Poppins era alta e minacciosa e Michael aprì gli occhi immediatamente. Per la santa misericordia, dov'era mai? Certamente quella non poteva essere la camera dei bambini. Eppure il vecchio Dobbin era sempre nel suo angolo. E così il lindo letto da campo di Mary Poppins, i libri, i giochi e le sue pantofole. Tutte le vecchie cose familiari erano là riunite. Ma ora ciò che mancava a Michael era anch'esso una vecchia cosa familiare. Ma dove è andato il mare? Disse di cattivo umore. Voglio andare di nuovo al mare. La sua faccia fece capolino dalla porta della stanza da bagno ed egli si rese conto che Mary Poppins era furiosa. Il mare è a Brighton, dove è sempre stato. Ella disse con cruda chiarezza. Adesso studiamo, marsh, e guai a te se dici ancora una parola. Ma ero nel mare un momento fa e anche tu c'eri e stavamo ballando fra i pesci al suono della zampogna del marinaio. Uffa! Sbuffò Mary Poppins con un colpo alla stuoia del bagno. Spero di aver qualcosa di meglio da fare che andare a ballare con i marinai. Ebbene, che ne è di tutti quei pesci? Domandò Michael. La foca, il salmone e la vecchia comica tartaruga. Noi eravamo laggiù con loro, Mary Poppins, proprio sul fondo del mare. Giù nel mare? Con un vecchio ridicolo salmone? Hai fatto certamente un sogno. Credo che tu abbia mangiato troppi fagioli a cena. Marinai e tartarughe. Ah, cos'altro ancora? Il suo grembiule ebbe un fruscio violento, quasi di rabbia, mentre ella se ne scappava via brontolando. Michael osservò quella sua fuga e corrugò la fronte. Non osava dire più nulla, lo sapeva, ma non poteva fare a meno di rimanere perplesso. Mentre veniva fuori dal letto e metteva i piedi nelle pantofole, continuava a rimuginare il suo ricordo. E mentre cercava la soluzione del problema, i suoi occhi incontrarono quelli di Jane che faceva occhiolino da sotto le lenzuola. Ella aveva udito ogni cosa della discussione e mentre ascoltava aveva pensato ai casi suoi. E i suoi occhi avevano notato qualcosa e ora sorrideva in modo strano a Michael come se la sapesse lunga. Era una festa peschereccia? Disse ella. No, non era un sogno. E additò la mensola del camino. Michael volse gli occhi in su, avidi, ed ebbe un soprassalto di stupore, poi un sorriso di trionfo gli si diffuse sul volto. Sì, vicino alla conchiglia c'erano proprio i 2 dollari di sabbia e una piccola stella marina, rosata. Ti ricordi che cosa aveva detto la Terrapin? Tutti quelli che vanno nel mare ne riportano fuori qualcosa. Jane glielo ricordò. Michael, mentre guardava i dollari di sabbia, annuì. In quel preciso momento la porta si spalancò e Mary Poppins balzò dentro, prese la stella marina dalla mensola del caminetto e se la appuntò al colletto. Che limpidi e smaglianti riflessi! Rimandava la stella mentre Mary Poppins si contemplava nello specchio della camera. Michael si volse a Jane con un riso soffocato. Tidium pum pum! Egli bisbigliò. ti dia un pum pum, ripeté Jane in un sussurro. E audacemente, dietro alle spalle di Mary Poppins, accennarono al passo di danza della zampogna del marinaio. I bambini non seppero mai che i grandi occhi azzurri di Mary Poppins li avevano osservati nello specchio e si erano scambiati un calmo sorriso di degnazione con quelli della propria immagine riflessa.